Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Se ci siete possiamo partire, noi siamo qua, tutti pronti. Alberto Pellai, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Giorgio De Luca in redazione e assistenza. Oggi, Alberto, parliamo di fiducia. È una cosa mica da poco, è un tema direi da 1 milione di euro. Se voi sapete rispondere in modo veloce, immediato alla domanda mi fido di te, e questo lo rivolgiamo nelle relazioni familiari dei genitori ai figli oppure dei figli ai genitori. Voi vi fidate dei vostri figli? I vostri figli si fidano di voi come genitori? E vi è capitato come genitori di capire di aver perso la fiducia che vostro figlio nutriva nei vostri confronti? La fiducia va seminata, coltivata e può anche essere recuperata, per fortuna, però certo, la fiducia. E se ci pensi, noi genitori tante volte pensiamo alla fiducia nella relazione genitori-figli come qualcosa che deve essere dato a un figlio, certo. Ma questo è un aspetto. Ma ci siamo mai interrogati su quante volte eventualmente noi tradiamo la fiducia che i nostri figli nutrono nei nostri confronti? Oggi vorremmo parlarne con voi e vorremmo che voi oggi, magari con i vostri figli, continuasse a ragionare su questo aspetto e cercasse di capire, come stiamo facendo io e Alberto proprio in questi giorni in cui preparavamo la trasmissione, se in effetti siamo genitori affidabili. Alberto, lavoreremo ancora, ma intanto io direi di andare a sentire subito la mail da cui abbiamo preso spunto per il tema di oggi. Mio figlio Paolo, 15 anni, dopo intense negoziazioni ha ottenuto il permesso di uscire la sera del sabato con i suoi amici, purché il rientro avvenga entro l'una di notte. Ha sempre rispettato la regola. Sua madre è sempre molto in ansia quando lui è fuori, così alle 23 spesso gli fa una telefonata per sapere dov'è e magari richiama anche dopo la mezzanotte per sincerarsi che tutto sia a posto. Sabato scorso mio figlio ha staccato il cellulare. Sua madre lo chiamava e lui non era raggiungibile. Lei è quasi impazzita d'ansia. Tra l'altro lui quella notte è rientrato alle 2 per la prima volta. Abbiamo vissuto un'ora di grande ansia. Al rientro ha detto a sua madre che voleva darle una lezione. O ti fidi di me e la smetti di chiamarmi quando sono fuori, oppure io non rispetto più le regole che avevamo concordato. Mia moglie avrebbe voluto metterlo in castigo, ma secondo me in ciò che ha fatto c'è un insegnamento importante anche per noi genitori. Di un figlio, se rispetta le regole, bisogna anche imparare a fidarsi, altrimenti si rischia di diventare genitori inaffidabili e travolti dall'ansia. Cosa ne pensate? E qua, caro Alberto, c'è un figlio che ha deciso di rieducare una mamma ansiosa, convinto che alcuni suoi comportamenti, come ad esempio richiamare le... Però viene da mamma, viene, io mi sono abbastanza ritrovata, però insomma una bella lezione. Secondo me avrebbe potuto tornare all'1.05, bastavano quei 5 minuti, però scherzi a parte. Vogliamo dare il nostro numero verde per invitare i nostri amici da casa a intervenire e a chiamarci? 800 24 0024, il nostro centralino a vostra disposizione. I messaggi al 349 238 6666. Alberto, diamo il benvenuto anche ad un'amica. Ad una nostra amica, è Fulvia degli Innocenti, è una giornalista de Il Giornalino, dove cura proprio una rubrica di posta, la quale scrivono i ragazzi raccontando storie magari legate ai loro primi amori, ma la famiglia la fa da protagonista, quindi ha letto certamente tante storie di fiducia e tra l'altro ha appena pubblicato per Edizioni San Paolo un libro, si intitola La ragazza dell'Est, che ha vinto il premio Giovanni Arpino di narrativa per i preadolescenti proprio quest'anno, dove il protagonista si trova sospeso tra due genitori separati in cui la mamma super ansiosa moltiplica tutte le funzioni di controllo sul figlio e c'è invece un papà che fa il giornalista e si muove per il mondo che invece è molto affidabile per alcuni aspetti, il figlio lo chiamerà poi proprio sulla scena in alcuni passaggi, gli dirà tu devi imparare a fidarmi a fidarti di me come io mi sono fidato di te, e quindi gli insegnerà un po' anche a diventare un papà migliore. Ecco, in tutto questo poi questa persona c'è, perché con tale presentazione si sono fidati, hanno detto smetterà a un certo punto, arriverà lei, la voce Fulvia degli Innocenti. Ciao Fulvia. Ciao e grazie. Che grande presentazione ti ha fatto Alberto. Alberto si fida molto di te. A proposito, tu hai sentito la lettera del nostro papà, sì, che ci raccontava il fatto di oggi, di cui la rete, no, di questa casa non è un albergo si sta occupando. Che cosa avresti fatto? La mamma diceva lo metto in castigo, il padre dice ci ha dato una lezione. Era una lezione? Penso di sì, era già stata filtrata dall'interpretazione del padre, forse, sì, questa certo lezione. Però bisogna fare un passo indietro, la mamma doveva stringere i denti, doveva resistere, doveva proprio resistere. E spesso i genitori perdono la fiducia quando dicono una cosa ma poi non la mantengono, che non è facilissimo nella vita mantenere un proposito, mantenere un obiettivo, mantenere una parola data. Non è facilissimo perché siamo mutevoli, i nostri umori mutano, siamo uomini, funzioniamo così. Ma quando è in gioco la fiducia occorre resistere a tutti questi altri passaggi di emozioni che ci appartengono, perché altrimenti veramente non siamo affidabili. E quindi io avrei detto resisti e non telefonare. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Una puntata tutta dedicata alla fiducia reciproca, reciproca, per cui genitori provate a chiamarci, raccontateci quand'è l'ultima volta che vostro figlio ha tradito la sua fiducia. Penso a bigiature a scuola, cioè quando dicono vado a scuola e poi scoprite che sono andati altrove, oppure magari vi hanno preso soldi dal portafoglio senza dirvelo e voi ve ne siete accorti dopo, oppure mamma, papà, io non ho mai toccato una sigaretta, e scoprite che questa non è la verità. Sono proprio però un po' fate anche il contrario. Il papà che ci ha scritto ha generato già molto, molto dibattito. Per esempio arrivano SMS in cui ci scrivono i genitori. Ettore dice figli che danno lezioni ai genitori, ma non era il contrario. Se fosse mio figlio la prossima volta lo faccio uscire tra un mese. Però la questione che vogliamo aprire con voi è una mamma che chiama, hanno fatto un patto, rientri all'1 e la mamma comincia a chiamare alle 11, a mezzanotte e mezzo. Guardate la cosa con gli occhi di un figlio. A voi è capitato? 824 0024, Marino ci chiama da Treviso, buongiorno Marino. Buongiorno a lei signora Carboni, è una bellissima trasmissione, me lo lasci dire. Grazie. Ecco, niente, volevo portare la mia testimonianza. Io ho una figlia solo e da sempre, fin da piccola, gli ho insegnato le regole. Adesso a 31 anni ancora segue le mie regole, le regole che diciamo si è fatta sua. Sì. La signora che è stata in ansia, che voleva telefonare, ha sbagliato secondo me, doveva giustamente tenere duro. Perché un patto, c'è niente da fare. Infatti, come diceva Fulvia degli Innocenti, la mamma doveva resistere, però tante volte magari l'ansia prende il sopravvento e lì funziona magari l'alleanza dove c'è la coppia dei genitori della coppia, Alberto. Certo, credo che bisognava legarla, insomma, in questo senso, laddove ci sono i papà sulla scena, secondo me aiutano proprio le mamme a fare quell'operazione di resistere. Se non c'è un papà, perché per esempio i genitori sono separati, un genitore deve veramente in qualche modo imparare a rispettare un contratto. Chiedo a Fulvia, che legge tante lettere dei ragazzi che scrivono al suo giornale, quali sono le questioni principali che sollevano i figli rispetto ai patti di fiducia con mamma e papà? Sicuramente i permessi, le libertà conquistate, la gita scolastica piuttosto che la festa o il motorino, sono proprio dei must dai 12-13 anni. E c'è sempre in ballo ma lei non si fida di me, e la sensazione da, sì, da parte dei ragazzi e che comunque la fiducia sia, gli sia dovuta. Allora la mia funzione è sempre stata quella di dire: la fiducia va conquistata ai ragazzi direttamente, ovvero fai un piccolo passo verso il genitore, lui farà un passo verso di te, fai qualcosa che lui non si aspetta da te, stupiscilo, sorprendilo uscendo dal ruolo di quello che non mette mai in ordine, di quello che non studia abbastanza, ovvero fai qualcosa per far vedere che tu fai un movimento diverso, allora lui ti guarderà con occhi diversi. Questo è il messaggio che io gli lancio. Questa... di trovare una mediazione dove anche il ragazzino, perché io a lui parlo, certo, e si muove verso il genitore. Allora Alberto, Fulvia ha mandato un messaggio al ragazzino, perché lei parla con i ragazzini, tu parli con i genitori dei ragazzini. Allora, tradotto per adulti, questo messaggio di Fulvia che parole può avere? Ma io ogni tanto mi sento di dire agli adulti che per conquistarsi la fiducia di un figlio loro devono essere in qualche modo affidabili e coerenti con il messaggio che stanno rinforzando nel momento in cui lavorano, funzionano come genitori. E provo a dirvi delle cose, cioè per un figlio la fiducia viene tradita nel rapporto con sua mamma e suo papà quando, per esempio, questo è un tradimento terribile, si accorgono che mamma e papà hanno un'altra storia d'amore, cioè non funzionano più bene nella loro coppia affettiva originaria, e su questo non sono assolutamente capaci di fare chiarezza. Questo è proprio un tradimento terribile per i figli, che spesso porta poi o a rabbie che esplodono su altri fronti, oppure al silenzio assoluto, quasi a proteggere ciò che hanno scoperto. Ma questa è proprio una cosa brutta da vivere come figlio, perché impari a non poterti più fidare di mamma e papà. Un altro aspetto, secondo me, su cui è necessaria la coerenza è che se un papà richiede regole, rispetti, televisione, videogiochi, deve tempo libero, sigarette, esempio. È fondamentale dare il buon esempio. Daniela, dalla provincia di Genova, poi vi leggo un po' di sms, anzi li faccio leggere ad Alberto Pellai perché io non ho portato gli occhiali, e sulla risposta di questo ragazzo c'è molto dibattito. Alcuni dicono che dicesse alla mamma non telefonare più o non chiamarmi più, doveva tornare a Luna e poi parlare con i genitori. Insomma, l'idea che questo ragazzo abbia dato una lezione ai genitori fa discutere. Ma intanto noi andiamo a Daniela, che ci chiama dalla provincia di Genova. Buongiorno Daniela. Buongiorno, e senta, volevo solo dire una cosa. C'è una differenza molto, molto grossa, secondo me, fra ciò che noi riteniamo degno di fiducia e ciò che i ragazzi ritengono degno di fiducia, perché non è solamente studiare o non studiare, rientrare una certa ora o meno. Il problema è anche che per me alcune cose significano tradimento della mia fiducia. Sì. Loro hanno una concezione diversa, perché per me bere o fumare uno spinello o fare determinate cose sono cose che tradiscono la mia fiducia. Loro, i ragazzi di 20 anni, hanno una concezione completamente diversa, e questo secondo me crea una barriera alcune volte insormontabile, perché per me alcune cose sono veramente off limits. Daniela, lei ha dei figli? Mi scusi se la interrompo. Sì, certamente, 19-21 anni. Quindi... Ecco, ma quale territorio comune avete trovato? Perché lei dice giustamente che c'è una barriera. Anch'io come mamma riconosco che ci sono alcuni temi e aspetti che suonano in modo diverso a seconda, no, dell'età, esatto, e del ruolo. Proprio questo che voglio dire, sì. Però bisogna trovare uno spazio comune, perché se no non c'è più relazione. Non c'è comunicazione, certo. Alberto, niente. Tu cosa suggerisci per questo spazio comune? Poi sentiamo anche Fulvia. Io trovo che è uno spazio che deve essere proprio negoziato, concordato, esplicitato nella comunicazione e nella relazione con un figlio. Cioè un figlio deve avere chiare le aspettative che i genitori hanno su di lui e in qualche modo deve poterle negoziare, soprattutto quando cresce in età. D'altro canto, secondo me è molto importante quello che diceva Daniela, ci sono dei territori che sono off limits, su cui i genitori devono proprio mettere paletti molto fermi, non possono diventare complici con i figli e dire comunque mi fido di te anche se, e secondo me la zona delle droghe per esempio, proprio a partire dal singolo Spinello, è una cosa su cui i genitori devono rimanere molto solidi nella loro presa di posizione, in modo che i figli quando entrano in quei territori sanno che stanno facendo trasgressioni e non che hanno un permesso tout court dai genitori. Vogliamo leggere alcuni messaggi, Alberto? Sì, secondo me è interessante vedere come i genitori da una parte hanno compreso il punto di vista del figlio, però ma alla non fine lo accettano, no, rimangono solidali con i genitori e dicono che i genitori devono stare al loro posto e non possono in qualche modo ricevere insegnamenti dai figli. Qua vi rilancio di nuovo una domanda. Io penso che a volte quando noi mamma e papà sbagliamo in modo clamoroso con i nostri figli, loro abbiano diritto a sentirsi chiedere scusa. Però io, lavorando con molti genitori, mi rendo conto che questa è una cosa che molti genitori vivono come una posizione che indebolisce, cioè chiedere scusa ad un figlio in qualche modo è una cosa che ci rende molto deboli ai loro occhi e quindi non ci fa tenere la nostra posizione di autorevolezza. Rimando alla domanda Fulvia degli Innocenti, perché proprio il papà protagonista di Ragazza dell'Est invece questo passaggio lo riesce a fare molto bene con suo figlio. E come ti è venuto in mente e che cosa scatena questa posizione del padre nei tuoi giovani lettori? Io invece credo che saper chiedere scusa in un certo modo aumenta la fiducia, perché è comunque un tentativo di uscire da una posizione, e comunque anche l'autorevolezza non è una posizione rigida, è comunque una posizione in corsa, in mutamento, come la crescita dei ragazzi. E quindi un ragazzo da un genitore accetta il cambio di posizione perché vede il movimento verso di lui, e quindi in questo caso nella mia finzione romanzata è un padre che ha avuto sempre una grande ammirazione da parte del figlio, perché era un padre lontano e quindi come tutti i padri lontani spesso sono idealizzati, ma quando poi il padre si avvicina perché viene coinvolto in una vicenda drammatica in cui è rimasto coinvolto il figlio e rimane lontano, allora lì il figlio rimane deluso, perché in quel momento lui voleva che questa idea si concretizzasse e quindi diventasse un'esperienza. E a questo punto il padre ha due scelte: o perdere la fiducia, nel senso che ero un padre perfetto fino a che non dovevo mettermi in gioco, adesso tu mi chiedi di essere messo, che io mi metta in gioco e non faccio? Ce la faccio. Faccio la fatica, perché certo. È quello che il punto a cui tornavo prima: a volte fare chiedere scusa, resistere è faticoso, e trincerarsi dietro il genitore sono io, le regole do io sono l'autorità, è molto più semplice che mettersi in gioco anche chiedendo scusa. Questa è la mia posizione anche di madre, sì. Anche se io non ho ancora figli adolescenti, però ma sì, ci si allena, me la fiducia viene conquistata già con le interazioni da piccoli. Assolutamente. Viene più pesante nel momento che l'adolescente comincia a conquistarsi degli spazi di libertà, dove la fiducia invece è molto, molto più pesante. Mi piacerebbe sapere, dagli spunti che ci ha dato Fulvia, e questo chiedere scusa, mettersi in gioco, questo concetto della flessibilità che noi tante volte perdiamo quando abbiamo paura di non essere presenti nella situazione. Un po' come capita quando le persone hanno paura dell'acqua, entrano in acqua e si irrigidiscono. Facciamo un po' così. Allora mi piacerebbe capire da voi se ci sono state delle occasioni in cui avete toccato con mano di essere rigidi e che cosa vi ha fatto diventare più flessibili, là dove avete fatto il passo. Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Kyle Gibran. Siamo tornati, abbiamo Patrizia, ci chiama da Torino. Buongiorno Patrizia, benvenuta. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, siamo qui. Allora, io volevo dire la mia situazione. Io sono mamma di tre figli, uno di 28, uno di 24 e uno di 14. Sì. Tre età diverse, tre momenti della vita diverse. Io sono stata con la prima, una madre molto restrittiva, gli ho sempre proibito tutto e mi rendo conto che ho sbagliato, perché poi alla fine arrivi a 18 anni che fanno quello che vogliono. Il secondo un po' così così, nel senso alla fine ti rendi conto che ti raccontano sempre bugie. Il terzo ho cercato di dialogare, sì. Ma come la fai è sempre sbagliato, come mai? Patrizia, è abbastanza vero questo, e lo sento da amici che hanno tre o quattro figli, Alberto un po' come te, con i primogeniti regolissime, il secondo sì, così e così, con il terzo si allargano i cordoni, ma Patrizia dice come la fai la sbagli? Allora, direi che intanto è proprio la testimonianza in diretta di come si cresce con i figli, e i figli in qualche modo ci cambiano, ci fanno diventare persone diverse. Penso che effettivamente spesso i primogeniti si prendono il massimo delle restrizioni, delle regole, e fanno un po' da apripista e aiutano anche noi genitori a capire qual è la flessibilità che dobbiamo adottare. Sul terzo commento che ci fa Patrizia, cioè come la fai, la sbagli, credo che sia proprio questo poi fare il genitore, cioè non c'è una ricetta, non c'è un modo perfetto, non c'è una cosa che se la fai è comunque sempre giusta, e nel gioco con i nostri figli io credo che valga un po' la regola del tiro alla fune, cioè ognuno tira dalla sua parte, la partita non ha un vincitore, un vinto assoluto, e l'importante con i figli è far sentire che noi siamo lì a fare il nostro mestiere, cioè ad agire un'attenzione, un controllo, un monitoraggio che funziona da allenamento, così loro, mentre tirano dalla loro parte, si costruiscono una bella muscolatura emotiva. Fulvia, Alberto ha parlato di allenamento, in effetti tu prima toccavi il tema, no? Resistere è difficile, anche allenarsi è faticoso, però tocca fare così, non c'è altra strada, Fulvia. Sì, fare il genitore e fare il figlio non sono ruoli codificati, è una vecchia idea questa, io faccio anche questo commento che sentivo prima, un figlio non può permettersi di dare lezioni ai genitori, forse non può fargli la lezione in questo senso, ma si possono imparare tante cose dagli specchi che i figli ci rimandano, uno figlio a volte è uno specchio in cui noi ci riflettiamo, e qualche volta se ci fermiamo, almeno interiormente, se fermiamo a guardarci mentre siamo in azione e vediamo la reazione che il nostro dire, il nostro fare causano nei figli, ci vediamo come dilatati attraverso i loro occhi e probabilmente vediamo alcune cose che non ci piacciono neanche a noi stessi, e quindi ci correggiamo, no? Come uno specchio deformante. Ecco, questo per me è allenarsi anche, sapersi riconoscere negli sguardi degli altri, e i figli sono i nostri, io li considero dei grandi allenatori. Nicola, da Udine, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere. Ma io su questa cosa qui, io sono un papà di due bambini che stanno crescendo, uno di 8 e uno di 12, ma volevo semplicemente dare un mio piccolo contributo. Secondo me la questione della fiducia ultimamente non si può legarla esclusivamente a una questione di regole, ma io la legherei a una questione, cioè, secondo me fiducia fa rima con certezza. Cosa voglio dire? Voglio dire che se un figlio ha la certezza che il suo papà e la sua mamma lo amano, cioè vogliono il suo bene, e dietro questa parola tolgo un equivoco, perché tante volte a noi papà ci viene come la tentazione di avere una mano ad artiglio, tra virgolette, sulla testa dei nostri figli, come se fossero un po' una cosa nostra, un nostro possesso. E invece il fatto di volerli bene, cioè di volere il loro bene fino in fondo, cioè che crescano certi che la loro famiglia, i loro genitori sono protesi a che sviluppino loro delle relazioni fondanti su questo bene. Questo va da sé che le regole vengono non considerate come delle imposizioni, ma come un percorso, e quindi vengono più accettate, non come dei controlli. Quindi Nicola, lei dice bisogna coltivare l'allenamento di cui Fulvia e Alberto parlavano, e soprattutto coltivare facendo sapere ai figli che lo faccio per il tuo bene, ma questo può essere anche un'arma a doppio taglio. Alberto, cosa ne pensi? Penso che Nicola in realtà ci ha fornito delle belle immagini, tra cui anche quella di questa mano ad artiglio che effettivamente a un figlio non fa bene. Io userei quello che lui ci ha detto per dare la regola della prevedibilità, cioè un figlio si merita tanta più fiducia da un genitore quando in qualche modo è prevedibile, cioè io so che lo mando in giro per il mondo e riesco pure a distanza a prevedere che lui si saprà muovere con accortezza senza farsi del male, senza correre rischi eccessivi. E questo vale anche al contrario, cioè un figlio si fida dei suoi genitori nel momento in cui li scopre affidabili e quindi prevedibili, e quindi riesce un po' a capire nella loro mente quali sono le posizioni che usano come educatori e a essere perciò mamma e papà comprensibili nelle loro scelte agli occhi di un figlio. Andiamo ad Anna che ci chiama da Latina. Buongiorno Anna. Buongiorno a voi e complimenti, come al solito siete fantastici. Grazie Anna. Problema fiducia. Allora io, siccome ho avuto un figlio a 20 anni, è cresciuto insieme a me, quindi sì, ero portata a dargli fiducia, ma anche per carattere. Sì. E a seguito con altri due figli, io ho tre figli, 30, sì, 20 e 10 anni. C'è stata poi, si è verificata la situazione in cui i figli mi dicevano: ma mamma, tu non sei come le altre mamme. Tra virgolette era come un'accusa. Nel senso, io, sai, io vado, non so, al festino, le altre mamme chiamano 20 volte, tu mi chiami quando entro e quando esco. E quindi c'è stata la reazione contraria, cioè la mancanza teoricamente di quell'assilamento che altri figli avevano, mentre gli altri compagni volevano essere più controllati. Anna, esatto. Patrizia, esatto, ci ha chiamato prima da Torino e ha detto: come la fai, la sbagli. E così, l'importante è che si cresca, no, Alberto, insieme. Poi ci sono degli aggiustamenti cammin facendo e noi dobbiamo incamminarci, perché è quasi finita la nostra trasmissione. Sì, anche se penso ci siamo dati molte immagini, io credo che alla fine un figlio si fida sempre di più dei suoi genitori nel momento in cui si accorge che loro sono lì, sulla scena in cui lui sta crescendo, e lo accompagnano con un occhio vigile ma non troppo ansioso. Allora, grazie a Fulvia degli Innocenti per essere stata con noi, grazie a voi che siete intervenuti, ad Anna da Latina, con cui chiudiamo la nostra trasmissione. Un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.